Allora, io ricorderei l'appuntamento, questo triplice appuntamento a Roma, al Teatro Vascello, dal 23 al 26 aprile, Roma ore 11 di Elio Petri, dal 27 al 30 aprile, Troiane, frammenti di tragedia da Euripide, ma non solo, e dal 2 al 6 maggio, festa di famiglia da Luigi Pirandello. Un abbraccio, un saluto alle Miti A voi, Pretese a voi. Grazie. e ci si vede a teatro. Venite, accorrete, anche se ci sono solo delle giornate meravigliose, lasciate stare. Arrivederci. Ritroviamo Sibilla Barbieri, ideatrice di Cercatori di Storie, che sarà in scena sabato 28 aprile all'interno di Censimento 2018 a Roma. Sibilla, ben trovata. Ci Ciao, buongiorno. racconti un po' di questo progetto? Allora, questo progetto nasce leggendo il bando di censimento 2018, che è una, che raccoglie, che richiede alcune condizioni. Loro chiedevano che il team fosse fatto da 5 attori massimo, che fosse su improvvisazione, quindi su un canovaccio, e che fosse praticamente tra il pubblico, quindi senza scenografie, senza palco, un teatro povero però che implica una ricerca. Questo a me è interessato. Senti, allora, l'ideazione è tua e qual è stata quella di partenza? Allora, io in realtà mi occupo ormai di altre cose perché io ho una produzione cinematografica, eccetera. Questa Sì. mi è scappata. Quando ho letto il bando, proprio mi è venuta questa idea e non potevo più fare niente per non farla. Perché mi è venuta l'idea di fare uno spettacolo fatto di domande. Tra l'altro vorrei specificare una cosa, Federico, che noi il 28 siamo all'interno di un contenitore ulteriore, cioè Censimento viene ospitato attraverso in una festa che è Festaccio, che è all'Altra Economia. Sì. Scusami, ho fatto una regressione. Allora, per quanto riguarda la struttura di questo spettacolo, mi è venuto in mente di fare questo spettacolo fatto di domande, domande rivolte al pubblico e a due interlocutori privilegiati, perché è come se i miei attori fossero dei cercatori. Loro si rivolgono soltanto, hanno un codice, parlano solo attraverso domande. E il pubblico in qualche modo si trasforma in un coro seguendo le storie vere delle persone così diciamo intervistate dal vivo. Ok, e qual è il tenore di queste domande? Quali sono queste storie per sommi capi, se ci vuoi anticipare qualcosa? Allora, in realtà sono questa volta noi racconteremo due ragazzi giovani, Sì. 20 anni, un italiano e uno straniero che ha una storia particolare, ha vissuto una grande avventura nel voler venire da noi. E questo contenitore permette di raccontare intimamente qualsiasi tipo di storia, a parte che ognuno ha una storia personale molto importante. In questo caso, se si chiedi molto alle persone, scopri sempre delle cose interessanti. Però quello che voglio dire è che sto osservando che questa struttura dà la possibilità alle persone di raccontare intimamente la propria storia mentre viene sorretta dagli altri, questo coro crea una risonanza. Se io chiedo a te e chiedo ad un'altra persona la stessa cosa, improvvisamente tutti immedesimi in quella persona. Se io ti chiedo della tua infanzia, lo chiedo a lui, lo chiedo a te, tu sai che la sua infanzia non è diversa dalla tua. Senti, come funziona un susseguirsi di domande? La curiosità è questa. Una struttura drammaturgica. Alle Ok. volte, tra l'altro, infatti, devo chiedere ai miei di affidarsi alla struttura. C'è una cosa molto interessante. Io ho studiato con un drammaturgo spagnolo che si chiama José Sanchis de Sinisterra, forse te ne avevamo già parlato, un Sì. grande sperimentatore. E in realtà lui sostiene appunto, sia che la forma è il contenuto che il contenuto è la forma. Una struttura del genere è come se io costruissi un'architettura abitabile. Cioè, io ti costruisco una struttura di domande dove tu non ti puoi perdere, ti affidi a me che in realtà sto costruendo qualcosa di vuoto. Non so se riesco a spiegarmi, però Sì, quando a un certo una punto. sorta di intervista conversazione. Sì, è un'intervista con dei punti fermi, Sì. in cui però la drammaturgia c'è, perché io so, avendo intervistato le persone, io so quale sarà la risposta, Ok. in qualche modo di alcuni, per cui mi fermo in certi momenti e apro al pubblico. Ok. Senti, per saperne di più, ci dai dei riferimenti web, se già ci sono online? Allora, per adesso abbiamo sulla pagina di Festaccio, cioè il programma completo dell'iniziativa. Diciamo, della manifestazione, sì. Che è una grande manifestazione che raccoglie tantissime cose. Noi siamo il 28 alle 20 in una sala che si chiama Fermenti, che sta praticamente nel grande spazio dell'altra economia sulla destra, arrivando nel parcheggio. E per il resto non so se Censimento 2018 ha un suo sito, però sicuramente il sito dell'altra economia c'è. Perfetto. L'ultima curiosità è se poi si svilupperà in altro questo lavoro. Allora, la sperimentazione è sperimentazione. In realtà è questo quello che a me entusiasma. Sì, noi potremmo sia replicare, però ovviamente essendo materia viva, la domanda è quanto potremo replicare questa cosa. Questo non lo sappiamo, perché dipende dai ragazzi. Quello che abbiamo sperimentato facendo due prove aperte con del pubblico è che l'emozione resta identica nel raccontare, perché sì, perché si crea un'energia tra le persone e l'ascolto di persone nuove crea un'emozione nuova. E, oltre ad avere delle componenti imprevedibili per cui le mie attrici si sono preparate, potremmo raccogliere da veri ricercatori altre storie. È una struttura modulabile. Ok. Sì. Bene, allora ricordiamo l'appuntamento per sabato 28 aprile all'interno di Censimento 2018 a Festaccio, Cercatori di Storie, ideato da Sibilla Barbieri. Sibilla, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Federico, posso aggiungere una cosa? Eh certo. Il Censimento è stato organizzato da Cristina Pedetta, e che è lei l'ideatrice di questo contenitore dentro cui siamo ospitati. Benissimo. Un abbraccio e alla prossima. Grazie mille. Ciao. Con noi Alessandro Portelli, lo storico Alessandro Portelli, per parlare dell'iniziativa, dello spettacolo Ribelle e mai domata, storia e canti di una famiglia antifascista romana. Il 25 aprile al Teatro Vascello. Alessandro, ben trovato. Ben trovato, grazie. Buongiorno. Visto che è inserita nel progetto calendario civile del Circolo Gianni Bosio, questa iniziativa, di cosa si tratta? Ne parliamo un po'? Sì, dunque, diciamo, calendario civile è un progetto su cui il Bosio lavora da un paio d'anni e che scandisce tutta una serie di date, di momenti della storia democratica, operaia, antifascista e laica in Italia, cioè l'idea proprio di fare un calendario laico che sia accanto, che sostituisca o che integri il calendario, il solito calendario con le date dei santi, insomma. E quindi abbiamo date come appunto il 21 luglio Genova, Piazza Fontana, 1 maggio, 25 aprile, 8 marzo, queste date qua. E lo spettacolo del 25 aprile che è alle 11 della mattina, quindi insomma un orario non comodissimo per noi, nasce da questo, nasce da un'intervista, da una serie di interviste che io feci con alcune signore, alcune compagne di Valmelaina, che erano poi le mamme, le zie dei compagni del collettivo Edili, del manifesto in cui io militavo, che sono una grande famiglia che veniva da Trastevere e raccontavano soprattutto di questo straordinario padre che era sia un antifascista resistente durante il ventennio e anche la resistenza, poi appunto fino al confino e tutto. Ed è anche una straordinaria voce, uno che cantava tutte le canzoni politiche anarchiche, socialiste, comuniste e tutte le canzoni romane, quindi che so io, Addio Lugano Bella e Barcarolo Romano. E lo spettacolo, grazie anche al fatto che una giovane storica, Costanza Calabretta, ha trasformato questa intervista in un copione teatrale senza toccare una parola, cioè tutto lo spettacolo è fatto solo con le parole di queste meravigliose compagne, e poi è integrato, è intrecciato con le canzoni, con Sara Modigliani, che è la voce straordinaria che conosciamo, e altri musicisti del Circolo Bosio, e due giovani attori, Nicola Sorrenti e Matilde Daccardi, insomma, che danno un po' vita a questa memoria di un antifascismo legato poi alla materialità della povertà quotidiana, al non avere una casa, alle condizioni dure di vita dei lavoratori, degli operai a Trastevere e Val Melaina durante il fascismo. Alessandro, tutto a partire dal tuo libro, che è una raccolta di queste interviste. Come è strutturato il testo? Si parte da questo libro che infatti si chiama Ribelle mai domata, che è un libro, sono due CD con un libro, due CD che documentano il canto antifascista a Roma e nell'Italia centrale, perché appunto anche il canto partigiano non è che c'era solo al nord, c'è stato anche a Roma, in Umbria, in Toscana, nelle Marche, in Abruzzo stesso, e poi sono integrati da questo volume con 12 storie di 12 donne antifasciste e partigiane, che vanno da un Maria Teresa Rigar, che era nei GAP, a ragazze giovanissime che si sono trovate coinvolte in maniera magari meno drammatica, ma anche significativa, documentando poi questa resistenza fatta con cuore di donna, come diceva Carla Capponi, e quindi anche la concretezza del vissuto, la fame, il freddo, insomma, non soltanto i fatti d'arme o la clandestinità, ma anche proprio come fare a sopravvivere. Sono tutti ritratti di romane? No, no, ci sono molte romane, però ci sono almeno c'è una meravigliosa partigiana di Monterotondo, due Ternane, una di Gubbio, Valchiria Terradura, una di quelle che insegnavano ai partigiani a usare il mitra, e Lina Ciavarella, che era di Milano, quindi, ma soprattutto l'Italia centrale, e naturalmente molto Roma. Il libro comincia con Maria Michetti, che è una delle icone straordinarie del nostro antifascismo. C'è l'intervista appunto a queste donne di Val Melaina, che tra l'altro appunto questa famiglia Michetti è una famiglia che ancora è molto presente in tutto l'antifascismo romano. Sono 3-4 generazioni di antifascisti che nascono dalla storia raccontata in questo spettacolo e nell'intervista che è nel libro. Alessandro, ci sono dei riferimenti internet per saperne di più su questo tuo lavoro e anche sui CD? Potete scegliere sul libro e CD, potete cercarli soprattutto direi nel sito di Squilibri Editore, che è l'editore del libro, o anche naturalmente nel sito del Circolo Gianni Bosio, www.circologiannibosio.it, insomma. Direi che intanto questi sono i Sì, riferimenti. sì, Poi sì. c'è naturalmente la pagina Facebook del Circolo Bosio e la pagina Facebook di Calendario Civile, che appunto danno le indicazioni sugli eventi e sulle scadenze. Dopo questo 25 aprile, qual è la prossima tappa già fissata per il calendario civile? Ma guarda, intanto poi lo